Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Venerdì 9 aprile, rieccovi su Liberi Dentro e Duradio, conclusione di questa nostra settimana. Io sono sempre Caterina e qui con me ci sono Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, a tutte e a tutti. Anche in arabo perché è venerdì. Assalamu alaikum e anche Ramadan Karim perché sta, diciamo, proprio al limite dell'inizio del Ramadan, a tutti quanti quelli che lo fanno. E buongiorno a Paolo Billi, Teatro del Fratello e Coordinamento Teatro Carcere. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ne approfitto per ringraziarti di questa ospitata speciale per questa settimana, molto, molto interessante con te. Grazie. Parto a voi. Sempre dalle notizie dedicate al carcere, in particolare oggi vi parlo di un appello, le parole delle detenute dal carcere di Torino, appello alla ministra Cartabia. Perché io vi vorrei leggere tutti i nomi delle 31 donne della terza sezione femminile del carcere di Torino, il Lorusso Cotugno, che compaiono in coda all'appello rivolto innanzitutto alla ministra Marta Cartabia, il nuovo ministro della giustizia, e poi alle autorità varie, associazioni, ma anche tutti noi, cittadini, la cittadinanza è importante. Ed loro entrano subito nel cuore del problema, il Covid. Chiedono aiuto perché scrivono: viviamo ore di angoscia e di impotenza rispetto a tutto ciò, perché oltre agli sforzi del singolo, che non bastano, deve rispondere l'istituzione carceraria, applicando la sicurezza. Ora sappiamo che i vaccini pian piano stanno partendo, c'è stato l'appello della senatrice a vita Liliana Segre, del garante nazionale Mauro Palma, per assicurare il vaccino soprattutto in primis alle persone detenute, ma non basta, bisogna impegnarsi sempre e ancora di più in queste ore cruciali. E poi fanno anche una richiesta, entrano nel merito, di sostenere l'ampliamento della liberazione anticipata da 45 a 75 giorni, così come fu nell'annata tra il 2010 e 2015 per il sovraffollamento, per rispondere a questa esigenza del sovraffollamento. Loro scrivono: non deve sembrarvi una richiesta astrusa questa dell'allungamento, dell'ampliamento della liberazione anticipata, ma dovrebbe essere riconosciuta a tutti noi la dignità di essere cittadini e non solo numeri. E poi scrivono una cosa molto, molto toccante, perché dicono che anche loro sono rimaste basite, anche loro, i cittadini all'interno del carcere, le seguono le notizie, e quando hanno visto le immagini delle code davanti alle Caritas, e nessuno, scrive, meglio di noi può comprendere cosa voglia dire la solitudine obbligata degli anziani nelle RSA, la distanza forzata, la mancanza di un abbraccio, perché appunto nella loro condizione la mancanza di affettività è una cosa che pesa parecchio. Quindi ricordiamoci di questo appello, mi raccomando. Mentre Ignazio, sempre parlando di femminile allora, tutta questa settimana abbiamo parlato di questo, siamo in Giordania e c'è la storia di Abir. Sì, io però l'allaccio a quello che tu dicevi, anch'io mi unisco a questa solidarietà per le donne che stanno in carcere, anche gli uomini ovviamente, ma perché ricevo delle lettere, non faccio nomi, non faccio cognomi, non leggo i testi, però questo periodo di Covid è stato micidiale per molte di loro, anche quelle che si sono ammalate, dei periodi lunghissimi di isolamento in cui veramente ho potuto toccare con mano l'angoscia e se anche solo una goccia d'acqua per dire che vi vogliamo bene, ecco, che vi siamo vicino, che vogliamo rivedervi, tenete duro, lo si può dire attraverso anche la nostra radio, la nostra TV, e lo diciamo con questa storia di Abir Abbas, che nel 2013, appunto nel mezzo del disastro siriano, andò in Giordania con un marito ammalato, gravemente ammalato, quindi in una situazione tragica. Chi ha visto le foto dei campi siriani in Giordania ha visto un pezzetto dell'inferno, si potrebbe dire, altro che carcere. E lei è riuscita a trasformarsi in una imprenditrice nella cucina di casa sua, con delle pentole, dei fornelli e un piccolo frigo, e ha, però la sua abilità appresa dalla mamma e poi da cose che ha letto nella realizzazione di prodotti caseari, formaggio, yogurt, la lavorazione del latte. e poi con la sua genialità quello di lanciare una rete per lo smercio di queste cose, al punto che è stata segnalata e premiata per questa cosa. Quindi si può vedere come donne in situazioni estreme, come questa a Bir o come chi sta in carcere, possono tirare fuori dal loro cappello, della loro genialità, delle grandi cose. Grazie Ignazio, e oggi chiudiamo invece con un autore musicale maschile. Invece. Maschile, Omar Suleiman, un mito, lo chiamo il mito, una leggenda musicale siriana. Il brano si intitola Adabka al-Arabia, che è il bario dei siriani. E la capacità dei siriani di ballare, io ho visto situazioni tragiche, in 4-5 per strada, se ci si prende a braccetto, uno canta o ci mette una bobina, ecco che qualcosa, e questo ballo, anche nelle situazioni più disperate, dà gioia. Ascoltiamo Adabka al-Arabia. تحلى وياك التونيسة قلبي يحبك ويريدك تحلى وياك التونيسة انت حبيب قلبي يا رجب يا بن عيسى انت حبيب قلبي يا رجب يا بن عيسى يا حب الوردينا يا قماتك علينا يا حب الوردينا يا قماتك علينا للفرح ليلة عيد يوم من انت تجينا تفرح ليلة عيد يوم من انت تجينا اسماعي للجيلان لا تتعوق علينا. Eccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro Eduradio e sulle note musicali di questa leggenda della musica siriana Omar Suleiman. Ignazio, il nostro Galateo Arabo come ultima tappa di oggi ci porta a parlare sempre del dialogo, ma dell'importanza del saper ascoltare. Esatto, sapere ascoltare, e quindi Adam el Mukata, dice Adam el Mukata a Kalam. Cioè, non tagliare la parola in bocca a chi parla. C'è sempre il tuo momento, viene il momento per dire la tua, non è che parla per 3 anni, no? Quindi non tagliargli la parola in bocca, lascia che finisca il suo pensiero. E la seconda cosa, non è, questo può sembrare tutto un galateo artefatto, no? Abbassa la voce, ascolta, mantiene il segreto. Ma no, ognuno deve dire quello che pensa, devo dire non sono d'accordo con te, io la penso diversamente, è mio diritto dirlo. Però tagiannum al gidal, cioè evitare la polemica, il gidal, cioè la polemica, cioè quello che è la battaglia di parole. Quando ho detto il mio pensiero, chiaramente lascio che l'altro dica il suo e mettiamo insieme questi nostri pensieri e magari cambierà idea lui o io. E proprio come stiamo facendo noi che ci diamo il turno e arricchiamo di voci questo programma Liberi Dentro, allora adesso è il turno tuo, Paolo, perché tutta la settimana abbiamo parlato di progetti, non soltanto anche a Pontremoli, poi abbiamo toccato diversi temi, abbiamo toccato il concetto di pregiudizio, la paternità, ma allora cosa dire del perdono? Ma sul tema del perdono, come dire, sarà la grande tematica del mio lavoro per i prossimi anni, e sia con gli adulti sia con i minorenni. È un tema alquanto complesso che ho cominciato ad affrontare proprio con le donne della sezione femminile della Dozza. E in questi anni alla sezione femminile si è costruito un bel gruppo di donne che sta seguendo in maniera costante, anche in tempi di pandemia, come dire, si sta tenendo un filo rosso che non si è rotto attraverso l'anno scorso un epistolario che continua adesso con un epistolario via mail, perché è l'unico strumento che abbiamo a disposizione in cui noi diamo le consegne e loro ci rispondono. E nella trasmissione del sabato pomeriggio una parte della trasmissione è dedicata proprio quando riescono ad arrivare le mail in tempo, a così ritornare il lavoro fatto. E con questo gruppo di donne abbiamo cominciato a lavorare sul tema del perdono, che come dire, lo stiamo affrontando in maniera molto, anche qui, in maniera molto delicata, perché è estremamente, come dicevo, complesso come tema. Non vogliamo affrontarlo in termini al momento attuale né a livello di riflessioni, ma partendo da alcune figure femminili molto diverse tra di loro. Un esempio, Penelope, Clorinda ed Euridice. Quindi eroine, diciamo così, le abbiamo chiamate eroine del perdono, sono perdoni assai diversi. Penelope perdona quest'uomo, questo signor Ulisse, che è stato 20 anni che si è perso tra amori nel Mediterraneo uno dietro all'altro, e però torna a casa e Penelope lo accoglie. Ecco, lo stesso Clorinda, nel momento in cui si ritrova ad essere ferita a morte da parte del suo amato, che però, essendo sotto vesti sconosciute, non sanno chi è l'uno e chi è l'altro, perdona lui che l'ha uccisa in quel momento. Quindi altra situazione, altro significato di perdono assolutamente diverso. Ecco, quindi attraverso queste figure si sta cominciando a assaggiare questo territorio immenso, e piano piano con loro io confido nel riuscire a trovare una scrittura originale, perché poi è quello che mi interessa. Quindi con Silvia, Ilenia, Stefania, Daniela, che sono, diciamo, le donne con le quali è molto saldo, quelle che sono rimaste, perché nel frattempo, per fortuna loro, tante sono uscite, con le quali continuo ad avere rapporti, con Roberta, con Karen, Violetta, e si mantengono. Ecco, con queste io confido di affrontare questa nuova sfida in uscita dalla pandemia, affrontando questo tema così, come dire, sensibile a tutti quanti noi. Grazie Paolo, sono senza parole perché è stato un bellissimo intervento per tutta la settimana il tuo, e allora lancio un brano proprio sulla base di quello che ho appena detto, Senza parole di Vasco Rossi. Grazie e ci rivediamo dopo con il prossimo ospite. Ho guardato la televisione e mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo, e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore, e non ho più pensato a tutte queste cose. Eccovi, bentornati su Liberi Dentro, ai nostri ascoltatori tra la città e il carcere. Siamo con un nuovo ospite qui con noi, Stefano Cuppini. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Tu, Stefano, sei formatore presso la cooperativa sociale Cefal, su cui non sto a dire molto altro perché ne hanno già parlato Fabio e Lorenzo di ASP. E però, entrando più direttamente nelle nostre tematiche, quello che volevo chiederti, anzi, quello che colpisce a me tra i vostri obiettivi della vostra organizzazione sociale, è che vi occupate di soggetti, tra virgolette, fragili, proponendo loro delle attività per riscattarsi, diciamo, socialmente e essere incluse nuovamente nella società in cui tutti viviamo. Quindi, agendo sullo sviluppo delle loro potenzialità, leggo, attraverso lo strumento della formazione e dell'educazione sociale, che sono obiettivi bellissimi, ispirati dalla Carta Costituzionale, ispirati dalla dottrina sociale della Chiesa, per esempio, però più nel dettaglio vorrei capire da te se ci puoi raccontare come avviene questa cosa all'interno di CEFAL e come si aiuta una persona che ha bisogno di aiuto. Bene. Come si aiuta una persona che ha bisogno di aiuto? Lo si aiuta assieme ad altri. Nel senso che il mio lavoro, il nostro lavoro, deve essere concepito in modo da essere coscienti e consapevoli che lo si deve fare assieme ad altri operatori, di altri sistemi, che sono i sistemi del carcere, innanzitutto, i sistemi educativi, i servizi sociali, il volontariato, la città e le imprese. La si aiuta così. Noi, agendo con quella persona, assieme a quella persona, avendone una visione complessa, complessiva e sincretica sostanzialmente. Il nostro lavoro è agire in maniera specifica sulle competenze professionali, ma consapevoli che lavorare sulle competenze professionali non è sempre sufficiente, perché si impara a fare un mestiere, si può imparare tante cose, ma bisogna sapere anche imparare a stare dentro un mestiere, a stare dentro una situazione. Quindi il nostro compito è accompagnare passo passo in questo percorso, ripeto, attraverso gli strumenti della formazione delle politiche attive, che devono essere tarati in maniera diversa rispetto a chi hai davanti, con chi ti stai interfacciando. Questo per non far del male, innanzitutto, e non creare obiettivi e aspettative inutili. Consapevoli però che si è dentro un percorso che potrebbe essere lungo e con obiettivi diversi. Grazie. Ricollegandomi a quello che hai appena detto, che si lavora insieme, quali altre figure, allora, oltre a te che sei formatore, ci sono nell'equipe di CEFAL per seguire insieme le persone? Guarda, l'equipe di CEFAL, vabbè, ci sono io che ho un ruolo di coordinamento, un po' sui sistemi. CEFAL ha una serie di orientatori, ha una serie di formatori, ma quando è una serie di docenti, e i docenti sono prevalentemente, se non esclusivamente, persone che vengono dal mondo del lavoro. Quindi CEFAL non ha docenti che insegnano ristorazione, giardinaggio, tipografia, quello che è, dipendenti di CEFAL, ma sono professionisti che sono inseriti, quindi che lavorano, hanno un mestiere come artigiani, come imprenditori, come operatori di un settore, e in certi periodi dedicano il tempo a fare della formazione. Secondo me questo qui è determinante, perché ti tiene molto legato quel tipo di esperienza alla realtà. Io quando parlo di sistema non parlo di operatori CEFAL, parlo di sistema nel suo complesso. CEFAL, il privato sociale, il privato, fa bene il suo mestiere se lo fa assieme al pubblico, quindi ha l'educatore del carcere, all'operatore dei servizi sociali del Comune di Bologna, al volontariato, considerandosi come sistema che lavora assieme. Quindi quello che noi, secondo me, la particolarità di CEFAL o anche di altri enti, adesso non voglio per forza enfatizzare quello che è il nostro approccio, però è il tentativo di non essere dei puri, anche se importanti, gestori di attività o di corsi di formazione o di interventi volti all'inserimento lavorativo, ma mettersi un po' di anima, di cuore, di testa, quindi fare di collaborare con chi poi ha la situazione in mano, e che è il carcere, però collaborare dentro un sistema di progettazione condivisa dei percorsi. E quindi a proposito di anima, cuore, testa, adesso siamo a metà della nostra chiacchierata, quindi lancerei un brano, lancerei Brunori Sax, una canzone contro la paura. E resta qui che ci vediamo. Le mie canzoni poco intelligenti, che ti ci svegli la mattina e ti ci lavi i denti. Canzoni per chi non ha voglia di pensare o di ascoltare. Canzoni per dimenticare. Sono canzoni poco consistenti, insomma canzoni come me, che non faccio più ragionamenti, che voglio solo sensazioni, solo sentimenti e una tazzina di caffè. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare, solamente una tristezza che è difficile toccare. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è. Rieccoci sulle note di Brunori Sax, una canzone contro la paura. Siamo con te, Stefano Cuppini di Cefal, cooperativa sociale che si occupa del reinserimento lavorativo delle persone con marginalità sociali, con difficoltà in questo momento anche duro, pesante per tutti, anche dopo la pandemia. Quindi io ti chiedo di raccontarci come vi si raggiunge, se una persona in questo momento ci sta ascoltando e volesse conoscervi, come funziona, come vi può contattare, cosa deve fare, come funziona il percorso per la presa in carico da parte di Cefal di chi fa richiesta. Allora, la presa in carico, diciamo, delle persone fragili, vulnerabili, persone in esecuzione penale in questo momento, dentro il carcere. Abbiamo quello che una volta era uno sportello, adesso non lo è più, nel senso perché poi le cose sono cambiate. Una volta noi, tieni conto, eravamo il centro per l'impiego dentro il carcere. E questo è un po' rimasto nel nostro approccio, nella nostra storia. E non siamo più il centro per l'impiego perché, non lo sto a raccontare perché, comunque le province non ci sono più, è cambiato il mondo. Abbiamo un presidio all'interno del carcere, si chiama Presidio Lavoro. Una persona all'interno del carcere, una persona in esecuzione penale, un detenuto, semplicemente deve fare, può fare una domandina, anche se il termine domandina è orribile. Però una semplice richiesta, sì, viene vagliata dalla direzione, arriva ai nostri operatori, e i nostri operatori, compatibilmente con quello che sta accadendo e con il loro tempo lavoro, vanno ad incontrare la persona. Per tutto quello che è la parte esterna al carcere, quindi le persone in esecuzione penale esterna, le persone anche fragili e vulnerabili che non sono in esecuzione penale, allora noi possiamo, ma non solamente noi, chi fa il nostro mestiere può attivare atti percorsi, quindi la presa in carico, anche se tecnicamente non è una presa in carico, attraverso una collaborazione, quindi una segnalazione da parte del servizio pubblico. Quindi UEPE per questione penale esterna, servizi sociali per situazioni che, per persone che sono in situazioni di fragilità. Ovviamente famiglie, persone, imprese, cooperative che vogliono fare un ragionamento con noi, assieme a noi, per cercare di contribuire assieme a quel sistema di cui parlavo prima, per affrontare assieme la tematica, posso tranquillamente contattarmi presso il Cefal, quindi chiamano Cefal attraverso il sito, attraverso le mail, quindi i contatti istituzionali, e in quel caso vediamo cosa è possibile costruire e condividere dentro questa storia, sostanzialmente. Perfetto, quindi per chi ci ascolta in questo momento, domandina, richiesta per contattarvi, e poi dopo ci sarà, immagino, un colloquio e... Esatto. Si aiuterà la persona a capire anche che cosa è nelle sue corde, nelle sue capacità, giustamente, sì, no? Sì, è così, ma teniamo anche presente che siamo sempre in una situazione, è banale dirlo, ma io ho imparato nel corso degli anni che creare aspettative sia il male più grande che posso fare. Certo. Quindi l'operatore, che il collega che risponda a quella domanda, sicuramente va a colloquio, sicuramente inizierà a fare una ragionata su cosa è possibile fare, cosa non è possibile fare, ma va sempre tenuto in considerazione che esiste una magistratura, esiste una direzione del carcere, esiste un'equipe, e quindi tutte le valutazioni vanno fatte oltre che con la persona, assieme a chi in questo momento è in carico quella persona. È determinante dirlo e ridircelo continuamente, perché altrimenti possono scattare delle aspettative che, ripeto, sono inutili e poco efficaci. Grazie Stefano. Quindi bisogna, diciamo, lavorare insieme, e anche adesso mi collego alla canzone che lancerò adesso, combattere tutti insieme, ma nel senso positivo, combattere con le proprie forze per renderci sempre persone migliori tutti i giorni. E quindi lancerei il Finest, combattere, e noi ci rivediamo, spero, la prossima volta. Grazie mille. Ciao, grazie a voi. Ciao. Hey, perché bisogna combattere, cambio questa realtà, voglio riprendermi tutto, bisogna combattere, solo la verità, non ho bisogno di niente. Credevo di essere in torto e mi sono assolto. Non puoi perdere il treno quando aspetti in aeroporto. Cercavo slancio, mi sono perso a maggio. Vi basta per convincervi che sono un personaggio. Personalmente ho perso tempo dietro gente che in un attimo è svanita perché l'attimo fu gente. Tieni a mente che combatte e non sto zitto. So bene che avrò perso il giorno che mi do per vinto. Ti prego Houston, lanciami su Marte. Qua mettono da parte l'arte per fare spazio alle cravate. E le ingiustizie sfilano, i giusti si defilano, ma i cuori non si arrendono. E chiudiamo il venerdì di Liberi Dentro con le parole di Stefano Coppini, e ci ridiamo appuntamento a lunedì prossimo con i buongiorni di Liberi Dentro, sempre ore 9 sulla radio, ore 10.30 su Teletricolore. Ma oggi pomeriggio alle ore 17 c'è il teatro con i Cantieri Meticci, e domani sabato abbiamo alle 17 il Teatro del Pratello e alle 17.30 la Cappellania del Carcere della Dozza. La domenica partiamo già alle 10 su Teletricolore con Notte Libere, poi proseguiamo alle 10.30 con La Cucina, il FOMAL, e alle 17 con il Teatro dell'Argine. Ma tutti questi appuntamenti li ricevete, noi speriamo, con la newsletter cartacea che vi inviamo ogni settimana. Scriveteci se avete dei dubbi, delle domande, delle proposte, liberidentro.duradio@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna. Grazie al nostro tecnico Matteo Peresini e grazie a tutti voi che ci seguite. Buona giornata.